Los Petrica ti batte, non ti chiedi come va. Beh, benvenuto qui fra luce e confusione. Nessuno che t'ha chiesto se volevi uscir di là. Cos'è il bene e ti ha spiegato il male, si sappia regolare, prima o poi c'è là di là. Guardare e non toccare, guardare e ingoiare, sei un po' nervoso ed un motivo ci sarà. Vivo morto ex, vivo morto ex, vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Fa una croce qui, firmati così. Vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Lo stronzo professore che ti ha rubato tempo con la sua mediocrità, e puntano al tuo tempo ed alcuni sì signore, perfino un giuramento non hanno di tua proprietà. Vivo morto ex, vivo morto ex, vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Siamo sempre qui come casa chi. Vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Faccia di chi t'ha visto che ex, ex. La faccia di chi ti pensa ex. La faccia di chi ti vuole. Per chi sa stare a posto, il posto tele accese, la casetta in Canada, il sabato la spesa, il giorno dopo in chiesa, e sei un po' nervoso ed un motivo ci sarà. Vivo morto ex,